una voce leggera mi fa palpitare il cuor. Quando ascolto alla radio una canzone che sa parlare d'amor, pensando a te sento che in me batte più forte il mio cuor. Quella voce cantando con passione dice con un dolce sospir: tu devi amar, devi sognar, d'amore non soffrir. Pensandoti quell'istante chiudo gli occhi per sognare, e sembra che stretto al cuor tu mi parli d'un grande amor. Quando ascolto alla radio una canzone, io ti vorrei accanto a me, per amar, per sognar, sempre felice con te. Chiudo gli occhi per sognare, e sembra che stretto al cuor tu mi parli d'un grande amor. Quando ascolto alla radio una canzone, io ti vorrei accanto a me, per amar, per sognar, sempre felice con te.